Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 8 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Per qualcuno è già stato un accenno di retromarcia. Berlusconi ieri in una nota ha detto che o si trovano ampie convergenze oppure tutto resta com'è adesso. Si riferiva alla legge elettorale con la quale voteremo il prossimo giugno per eleggere 72 italiani al Parlamento europeo. E sapete che c'è la volontà di cambiare questa legge elettorale. Nella bozza che prevede il cambiamento di questa legge ci sono alcune novità che hanno fatto e stanno facendo discutere. Due su tutte: verrebbe introdotto uno sbarramento al 5%, dunque i partiti che non ottengono quella soglia non eleggerebbero eurodeputati. Una soglia alta è la massima consentita per le elezioni europee. È un modo per semplificare il panorama politico per chi sostiene che ci voglia questo sbarramento. Una legge che altri, per esempio oggi Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista, la definisce liberticida addirittura, perché ovviamente esclude tutti i partitini. La seconda proposta che fa discutere, la previsione di liste bloccate, dunque togliere le preferenze, la possibilità da parte degli italiani di indicare i nomi e cognomi di chi si vuole eleggere, cosa possibile attualmente con la legge attuale. E invece Berlusconi ha detto dobbiamo mettere in lista dei professionisti, gente competente. Secondo alcuni invece si tornerebbe alla scelta, insomma, dei partiti che decidono loro chi mandare, tanto che il Riformista un paio di giorni fa titolava, anzi ieri, è una legge truffa. E allora, oggi tra l'altro è un giorno decisivo, Berlusconi vede il presidente della Camera Fini, cercheremo di capire se c'è questa retromarcia oppure no. Sulla legge elettorale cercheremo di capire se è in arrivo, come qualcuno dice, un rischio di nuova legge truffa, oppure invece bisogna mettere questo sbarramento al 5% per semplificare, bisogna togliere le preferenze perché ci vogliono persone competenti scelte dai partiti e non dai cittadini. Insomma, ne vogliamo parlare con l'onorevole Peppino Calderisi, che saluto, del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Relatore della bozza di riforma elettorale, tra l'altro ieri ha visto, non da solo, proprio Silvio Berlusconi per parlare di questo. Saluto l'onorevole Bruno Tabacci dell'UDC, benvenuto. Buongiorno. Ben ritrovato. L'UDC si sta battendo fortemente per mantenere soprattutto le preferenze. E saluto il direttore del Riformista, Antonio Polito, quello che ha scritto ieri il titolo: è una legge truffa. Benvenuto direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. La discussione sulla nuova legge elettorale per l'elezione europea alle 9.12 minuti, 800 24 00 24. Premessa, poi vedremo come funziona un po' in Europa. Bisogna dire che ogni paese dell'Unione Europea ha la sua legge elettorale, ovviamente è un sistema proporzionale che può includere o no le preferenze, e la soglia di sbarramento massima è appunto quella del 5%, quella che la maggioranza vorrebbe introdurre. Per quel che riguarda le preferenze, giusto per capire come funziona in Europa, ci sono 16 paesi europei dove le preferenze vengono mantenute, altri no. C'è da dire, come scriveva il professor Dalimonte sul Corriere, sul Sole 24 Ore di recente, che per esempio le preferenze sono state tolte nei grandi paesi: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia. Onorevole Calderisi, lei è il relatore di questa proposta di legge, ieri ha visto anche Berlusconi, è una retromarcia quella che ha fatto Berlusconi? Ma non c'è nessuna retromarcia, su questa legge con queste caratteristiche c'era un'intesa con il PD di Veltroni, questo è il problema. Una legge in piena consonanza con quelle che sono le leggi elettorali di tutti i più grandi paesi europei, sia per quanto riguarda la soglia di sbarramento al 5%, sia per quanto riguarda l'assenza di preferenze, perché tutti i maggiori paesi hanno leggi con queste caratteristiche, con queste due caratteristiche. I più grandi paesi, maggiori vuol dire i più grandi paesi. E sono il 70% degli elettori che votano con questo sistema. Se vede la popolazione. Sì, sì, infatti io l'ho detto, in 16 paesi rimane, ma sono i paesi più piccoli. Nei paesi più grandi, come hai detto, è stata anche nei paesi più piccoli il sistema di preferenze è diversissimo da quello che conosciamo noi, ma non c'è tempo per approfondire questo aspetto tecnico. Dicevo, questa tra l'altro, per quanto riguarda lo sbarramento, si tratta anche di uno sbarramento che corrisponde a quella che era stata indicata da D'Alema, Casini, Bertinotti come il mito, no, del sistema tedesco, che ha come elemento caratterizzante la soglia del 5%, come elemento di sistema. E questo serve sia per qualificare la nostra rappresentanza in sede europea, non disperderla in mille rivoli, ma diciamo far sì che possa contare molto di più, soprattutto nei due partiti maggiori, i popolari e i socialisti, e sia per consolidare quello che è stato la grande riforma che gli elettori hanno sancito con il loro voto, grazie alle scelte di Veltroni innanzitutto e poi di Berlusconi, con la nascita del PD e del PDL, due partiti a vocazione maggioritaria su basi programmatiche, lo sottolineo, e c'era, dicevo, all'indomani del voto un'intesa in questa direzione. Dopodiché nel PD sono cambiate molte cose, questo è il problema. Berlusconi ieri ha semplicemente detto che o si recuperano i termini di un'intesa oppure sembra difficile fare una legge senza questa intesa. Si dice, sì, qualcuno dice retromarcia, perché invece un paio di giorni fa, quando c'è stato l'appello del presidente Napolitano, Berlusconi ha detto no, insomma, si va avanti, le nostre idee sono queste, cioè togliere le preferenze e sbarramento al 5%, e rimangono queste. Faccio solo rilevare, non voglio commentarle direttamente, ma c'è stata anche una dichiarazione di Cossiga sulla dichiarazione di Napolitano, che forse andrebbe letta da parte vostra, ma la tralascio questa polemica, la lascio a Cossiga. Ripeto, tutti i maggiori paesi hanno un sistema di questa natura e quindi è una legge, non è una legge truffa. Io mi ricordo 20 anni fa che c'era una campagna che identificava il sistema delle preferenze con la corruzione si diceva è una porcata il sistema delle preferenze. Io ho sempre rifiutato quel tipo di approccio, quel tipo di giudizi. E ritengo che anche adesso bisognerebbe più laicamente valutare la questione. Ma guardi, il sistema delle preferenze è un sistema che comunque ha degli inconvenienti enormi, lievita le spese elettorali. Guardi, è una questione di battuta. La degenerazione correntizia dei partiti. È una questione di battuta, onorevole Calderisi. Di recente. Ma posso leggere una cosa di. Sì, rapporto del ministro pro tempore. D'Alema, gliela faccio leggere tra un secondo. Io a conforto di quello che lei ha detto, di recente Sergio Romano sul Corriere della Sera ha detto: ricordiamoci che quando Salvo Lima fu ucciso scoprimmo che fu eletto all'Europarlamento con 250.000 preferenze. Ma insomma il tema è dibattuto. Che cosa voleva leggerci del ministro D'Alema? D'Alema, ministro degli esteri nel periodo del governo Prodi, mise su come ministro degli esteri un gruppo di riflessione strategica che ha redatto un rapporto 2020, le scelte di politica estera, che serve per un rapporto teso a approfondire, diciamo, la questione della nostra presenza nel mondo, nel suo scenario internazionale, e in particolare in quello europeo, e in particolare c'è un allegato che riguarda appunto la legge elettorale europea, a proposito del quale il rapporto, la cui prefazione è firmata da D'Alema, dice che con l'attuale meccanismo del voto di preferenza, oltre a rendere costosissime le campagne elettorali, si limita oggettivamente la possibilità di selezionare una classe dirigente più giovane e consona alle competenze e alla complessità dell'arena comunitaria, esattamente il giudizio di Berlusconi. E tra i punti indicati per una proposta di riforma, il rapporto pone la riconsiderazione del voto di preferenza in circoscrizioni più numerose, più ampie di quelle attuali, e la necessità di diminuzione dei costi. L'Italia, ricorre il rapporto, è l'unico tra i grandi paesi e medi ad utilizzare il voto. Insomma, anche D'Alema dice voleva togliere le preferenze, per riassumere. La legge toscana è perché, mi scusi, anche per quanto riguarda l'UDC, la legge è vigente a livello nazionale. Però senza preferenze. A questo proposito, Calderisi, così vado da Polito e da Tabacci. C'è l'ultimo elemento. Sì, no, le chiedo che non ha circoscrizioni da 40 nomi, ma da 7 nomi. Questo è vero. Sulla questione delle preferenze, però. È una differenza abissale. Mi scusi, onorevole Calderisi, sulla questione delle preferenze si è sempre detto: era l'ultima volta che avremmo votato con questa, cioè in Italia la legge, la famosa definita porcellum o porcata dallo stesso Calderoli. Si dice sempre: il mercato delle liste chiuse, fatte nelle chiuse stanze dei partiti, non possiamo neanche mettere i nomi, un parlamento di cooptati. E di fatto, insomma, senza preferenze si andrebbe verso questa strada anche per l'Europarlamento. Ho qui anche una proposta: Barbera Bodrato. Non credo che un riformista come Barbera, un esponente della cultura. No, ma lei non mi citi tutte le proposte degli altri, voglio dire. Proponevano un sistema senza preferenze per le elezioni europee. Vabbè. Già dal 93. Quindi lei con la soglia al 5% e senza preferenze. È una legge truffa anche quella di Barbera e Bodrato. Ma allora, ma Calderisi, allora questa è la sua opinione, ma non mi citi però sempre gli altri, insomma, dica si sa difendere benissimo, e sa difendere benissimo la sua bozza. Vorrei andare da Polito e Tabacci. Polito, perché è una legge truffa, lei ha scritto in prima pagina sul Riformista. Calderisi dice: tutti i grandi paesi hanno lo sbarramento al 5%, le preferenze sono state tolte nei grandi paesi, Francia, Germania, Regno Unito, e quindi perché non da noi? Ma è una legge truffa perché finge, diciamo, dei nobili motivi, quelli che ha spiegato adesso Calderisi, dei bassissimi obiettivi di cucina politica italiana. Il primo obiettivo è quello di impedire la nascita o la rinascita o l'esistenza di alcuni partiti, il che a livello nazionale si può anche accettare perché si deve scegliere un governo e quindi non si può avere una frantumazione assoluta in Parlamento. A livello europeo non ha alcuna ragione di esistere, cioè il tentativo di impedire che l'UDC arrivi nel Parlamento europeo o di impedire che magari la sinistra radicale possa mandare uno o due deputati al Parlamento europeo è un modo di comprimere il pluralismo politico, per usare l'espressione che ha usato il Presidente della Repubblica. Le faccio un esempio: Umberto Bossi e la Lega non sarebbero mai nate se il sistema elettorale italiano non avesse consentito tanto tempo fa a Bossi di essere eletto senatore, l'unico in quell'occasione, e di costruire un movimento politico di cui oggi tutti diciamo che ha senso che esista perché rappresenta una parte importante del Paese. Se si cambia la legge europea, con la legge italiana già cambiata, nessun partito come la Lega potrà mai un giorno nascere, perché la soglia di sbarramento sia a livello nazionale sia a livello europeo è così alta che non può mai cominciare una nuova storia, cioè i partiti non sono uguali al nastro di partito. E lei dice: se in Italia può avere una ragione per semplificare, togliere i cespugli, cespuglini, certo, eccetera, almeno si hanno diciamo o una forma di bipartitismo, anche se qualcuno dice non si sa, non è così in Italia, però in Europa invece è quasi una voglia solo di vendetta, di volere togliere alcune rappresentanze politiche. È un interesse politico interno, così come anche l'abolizione delle preferenze corrisponde a un interesse politico interno, perché la ragione vera per cui Berlusconi vuole eliminare le preferenze è che, avendo, diciamo, il Partito della Libertà in cui c'è dentro AN e Forza Italia, ed essendo AN un partito molto più strutturato, se si votasse con le preferenze dovrebbero eletti solo quelli di AN e non anche quelli di Forza Italia, perché sono molto presenti e organizzati sul territorio. Ora, io non è che ami le preferenze, anzi, per dire la verità, non le amo affatto, ma c'è sempre un peggio del peggio, perché peggio delle preferenze è la nomina reggia dei parlamentari, cioè il capo di partito che fa inginocchiare il candidato davanti a sé, gli mette lo spadone sulla testa come si faceva quando si nominavano i cavalieri, lo nomina, virgolette, professionista, come ha detto il Presidente del Consiglio, cioè una specie, che ne so, di funzionario di un consiglio di amministrazione che rappresenta gli interessi del partito e del paese a Strasburgo. Io trovo tutto questo offensivo perché per la semplice ragione che in genere gli eletti del popolo si chiamano così perché sono eletti del popolo. Sì, si rischia quello di assistere a un altro mercato delle liste come abbiamo assistito in Italia. Bruno Tabacci, l'UDC si sta molto battendo per la questione sì preferenze, così è anche il logo, UDC sì preferenze. È una questione di mera difesa, voglio dire, elettorale, cioè con un sì preferenze, e soprattutto anche con lo sbarramento al 5% l'UDC rischia di rimanere fuori? Guardi, penso che per partecipare a un dibattito di questa natura bisogna stare molto sul filo dell'ironia, perché le motivazioni che sono state portate da Calderisi sono molto deboli, molto fragili. Già Polito ha dato qualche risposta specifica. Ora si inventa la storia che negli altri paesi, negli altri grandi paesi europei non ci sarebbero ad esempio le preferenze. Ma negli altri grandi paesi europei ci sono dei partiti regolamentati per via legislativa, con una vita democratica interna. In Italia ci sono dei partiti padronali, che nominano i deputati, i senatori e vorrebbero nominare anche i parlamentari europei, ovviamente violando la Costituzione laddove scrive che chi va a rappresentare il popolo deve farlo senza vincolo di mandato, no? Ma siccome Berlusconi pretende che siano invece tutti vincolati a lui, è chiaro che la procedura è questa. Lo sbarramento al 5% è strumentale, non per semplificare, come sarebbe giusto, sarebbe bastato il 3. Per semplificare, si mette al 5 perché si vuole impedire magari alla sinistra diciamo più radicale di essere presente, piuttosto che alla destra estrema. E per quale motivo noi dovremmo impedire agli italiani di esprimersi in Europa con formazioni che sono ampiamente presenti in altri paesi? Quindi è una forzatura che Berlusconi, abituato a fare i partiti davanti al notaio, a proposito di controllo democratico, avendo stabilito che c'è un rapporto di 70-30 con AN, deve adesso confermare quel rapporto e non può che farlo attraverso un elenco di candidati che impone lui. Quanto poi alla qualità dei rappresentanti, invito Calderisi e anche Polito magari a fare un confronto tra le rappresentanze parlamentari elette dal popolo nella Prima Repubblica e la qualità dei loro dibattiti, e confrontarli con quelli di oggi, di un Parlamento di nominati. Basta questo per capire che stiamo parlando di cose che sono lontanamente, diciamo, neppur paragonabili tra di loro. E quindi io credo che ci sia poco da aggiungere. Berlusconi adesso fa marcia indietro perché ha capito che non c'è un grande margine, e soprattutto dopo l'invito del Capo dello Stato, è chiaro che si mette in una condizione di grande difficoltà. Quanto poi al fatto che ci sarebbe stato un accordo con Veltroni, sì, cosa di cui apprendo, evidentemente ci sono sempre delle cose che vengono tenute sotto. L'onorevole Calderisi, relatore, sa che tutta l'ultima parte dell'attività legislativa in commissione è avvenuta con le opposizioni che se ne sono andate, tutte le opposizioni. Ma adesso ci torniamo da Calderisi, anche perché voglio capire, oggi è una giornata chiave, ci sono anche molti, e soprattutto di Alleanza Nazionale, una ventina di parlamentari che hanno fatto una mozione per mantenere le preferenze, quindi anche un dibattito all'interno della maggioranza, insomma una frattura su questo. Prima il primo ascoltatore, l'800 24 00 24, Roberto da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Pur essendo un elettore di centrodestra, dico questo. La favoletta delle preferenze da dare o non dare è esattamente una favoletta. Ha ragione Berlusconi quando dice che la rappresentanza in Europa, visto che è una rappresentanza molto ristretta, deve essere molto qualificata. Ma basta fare delle liste molto qualificate. Dopodiché, se le liste sono molto qualificate, che io scelga Tizio piuttosto che Caio è assolutamente indifferente. Così si scopriranno anche le... Secondo lei, mi scusi Roberto, sono state fatte le liste anche per questo Parlamento che abbiamo? Sono state fatte in maniera guardando ai curricula, guardando alle persone qualificate, oppure insomma si ricorda tutti gli articoli sul mercato delle liste, gente a implorare per avere un seggio? Certo, ma l'elettore a questo punto valuterà chi sono, chi ha presentato una lista veramente qualificata, cioè con persone veramente all'altezza del compito che andranno a svolgere, sì, e quali sono invece quei movimenti, quei partiti che presentano, mi scusi e mi perdoni la persona che citerò in questo momento, il Luxuria di turno o l'Agnoletto di turno, ecco, per capirci. Va bene, grazie Roberto. Onorevole Calderisi, c'è il rischio, dice qualcuno, anche di una fronda intera, comunque una frattura. Ci sono 20 parlamentari, soprattutto di Alleanza Nazionale, che hanno proposto un emendamento per dire no, le preferenze le vogliamo, e qualcuno dice questa retromarcia che lei dice non c'è stata di Berlusconi, a dire no, non voglio andare sotto, soprattutto se si va a un voto segreto su questo, piuttosto che andare sotto teniamo tutto com'è, insomma. Guardi, il problema è di fare sul piano delle riforme condivise, l'abbiamo sempre detto, anche per quanto riguarda per esempio le riforme del regolamento. Abbiamo presentato noi una proposta che contempla anche lo statuto dell'opposizione e il governo ombra. La cosa paradossale è che Veltroni prima fa il governo ombra, ci chiede di riconoscerlo e poi dice che il governo ombra non può essere inserito nel regolamento. Siamo a una situazione paradossale. Qui dobbiamo capire che cosa vogliamo fare. Noi vogliamo chiudere la transizione oppure no? Vogliamo continuare in una situazione di stallo? Vogliamo tornare indietro come il gambero? Perché Polito dice si può mettere lo sbarramento alle politiche ma non alle europee. Ma noi, insomma, non si può pensare che il sistema politico sia sottoposto ogni anno a sollecitazioni in direzione opposta. No, ha detto una cosa diversa, cioè dire metterlo all'interno in Italia, appunto, può aver senso, in Europa sa di vendetta, di vera propria. È una cosa assurda, perché tutti i paesi hanno sistemi in qualche modo omogenei. Certo, bisogna tener conto della specificità delle elezioni, ma un minimo di omogeneità ci vuole. Non si può pensare di sottoporre, ripeto, il sistema politico un anno ad un sistema di elezione di un tipo, un anno dopo in direzione totalmente opposta, perché noi non avremo mai la stabilizzazione del sistema politico. Ci vuole un'omogeneità. Se noi stabiliamo, ci vuole una norma di sistema, lo sbarramento è una norma di sistema che serve anche per qualificare la nostra rappresentanza in Europa, ripeto, e non disperdere in mille rivoli. Noi non contiamo in Europa, anche perché non ci abbiamo mai nessun rapporto, perché nei gruppi che contano, popolari e socialisti, contiamo poco, perché lì si applica il metodo Dont, le nostre rappresentanze sono sempre basse, sì, perché disperse in tanti gruppi. Allora, sì, quando parlano di metodo Dont poi entriamo in tecnicismi elettorali. Saluto, ci ha raggiunto il professor Roberto Dalimonte, che insegna sistema politico italiano a Firenze. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Tra l'altro ho citato anche qualche numero di articolo che lei ha scritto sul Sole 24 Ore di recente. Do un ascoltatore e poi vado per un attimo da Polito, poi sono da lei. Germano da Biella, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono favorevole allo sbarramento del 5% e in più penso che il discorso delle preferenze sia un discorso veramente di ipocrisia, in quanto anche con le preferenze le persone sono comunque sempre scelte dai partiti e hanno dato luogo allo scandalo della vendita delle vacche grasse, come ho assistito quando lavoravo nel Meridione, i vari galoppini che passavano di famiglia in famiglia a offrire denaro per poter comprarsi. Beh, quello non è una scelta dei partiti, si chiama in un altro modo, si chiama compravendita di voti, voglio dire, è un reato, ecco, non è. Le persone erano sempre candidate dai partiti e quindi scelti dai partiti. Sì, essere far parte di un partito ci mancherebbe, se no uno perché si candida. Far politica vuol dire far parte di un partito. Guardi, no, comunque la ringrazio, insomma, l'ho seguita un po' meno nella seconda parte, insomma, Germano. Comunque grazie. Ugo da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Di che? Una considerazione relativa al messaggio di Napolitano e all'intervento di uno dei signori che ho sentito prima. Sì. Però mi scusano se non ho capito bene il nome, perché non mi sono complicato il tempo. Mi sono messo in comunicazione in tempo. Relativo al pluralismo, dove è stato segnalato questa mattina, evidenziato la paura, il timore che non lo sbarramento al 5% non possa mettere nelle condizioni gli italiani di essere sufficientemente rappresentati. Beh, insomma, più che il timore, voglio dire, se c'è lo sbarramento al 5%, chi non lo raggiunge, sì, basta vedere il Parlamento attuale, sì, non so, a sinistra, a destra. C'è probabilmente un interesse dei piccoli partiti che... Io dico semplicemente questo, che credo che gli italiani abbiano abbastanza partiti d'Italia nel quale, attraverso i quali trovare uno di questi che li possa rappresentare nelle proprie idee, nelle proprie opinioni. Credo che ce ne siano già abbastanza. Tra l'altro, seguendo giornali, televisioni, giornalmente, mi rendo conto che seguire la politica oggi sia diventato veramente un lavoro, non è una cosa per tutti. Poter seguire le differenze, i particolari, chi segnala questo, chi segnala l'altro, è veramente diventato un sacrificio. Io cerco di farlo, perché stando in macchina su tutte le stesse. Va bene, grazie Ugo. Polito, Berlusconi vorrebbe mettere il 5% e togliere le preferenze, ma viste le divisioni interne sostanzialmente ha detto o grandi convergenze oppure non si fa nulla e rimaniamo così, tanto qualcuno ipotizza va peggio al PD di Veltroni, che deve avere a fare i conti poi con tutti i cespugli, cespuglietti a sinistra. Andrà così sostanzialmente? Ma infatti, più che una retromarcia, come avete detto voi prima, secondo me quella di Berlusconi è una minaccia. Nel senso che dimostra ancora di più una volta il carattere, come dire, strumentale di tutta l'operazione, cioè l'obiettivo vero che si vuole raggiungere, perché di fronte a un ampio fronte che dice no allo sbarramento al 5, la cosa più logica sarebbe dire 4, 3, cioè mantenere l'obiettivo di ridurre la frammentazione, ma evitare questa specie di ghigliottina. D'altra parte ricordo che in Italia lo sbarramento è al 4, non si capisce perché in Europa dovrebbe essere al 5, qual è la ragione di omologazione. Invece Berlusconi che fa? Dice o il 5 o niente, perché sa che il niente spaventa il PD. Perché è chiaro che se fosse possibile andare in Parlamento europeo come oggi avviene con lo 0,9% dei voti, che effettivamente è un po' esagerato, molti voti andrebbero a partiti minori e quindi verrebbero sottratti al PD o ad AN, perché l'altro elemento della minaccia nei confronti di AN, perché AN ha a sua destra un piccolo movimento, quello di Storace, che potrebbe in questo modo togliergli qualche voto. Quindi non è una retromarcia, è una minaccia, o tutto o niente, ed è la dimostrazione che in quel tutto ci sono degli interessi di partito, diciamo degli interessi immediati, contingenti della politica italiana, che niente hanno a che fare col Parlamento europeo. Io voglio solo dire una cosa agli ascoltatori: io sono d'accordo sulla semplificazione del sistema politico, ma in paesi come la Gran Bretagna o come la Francia o come la Germania, dove esistono sistemi elettorali completamente diversi dal nostro, i partiti sono anche di meno e la gente può scegliere i propri eletti. In Gran Bretagna sono 3, in Francia di fatto quelli che contano sono 2, in Germania sono 4. E la gente può scegliere, perché esistono 1000 sistemi elettorali che consentono alla gente di scegliere chi vuole e al Parlamento di essere governabile. Quindi questo argomento non vale. Professor Dalimonte, credo che sia capitato che con lo 0,7% alle ultime elezioni è successo, chiedo, la fiamma tricolore abbia eletto dei parlamentari europei, è così? Sì, come al di sotto dell'1%. Sì. Questa è una cosa veramente assurda. Quindi secondo lei uno sbarramento ci vuole per semplificare? Ci vuole uno sbarramento. Ma io, ecco, a differenza di Polito, penso che Berlusconi accetterebbe anche uno sbarramento al 4. In fondo il PD chiede il 3, con il 5 un compromesso sul 4 forse si troverebbe. Il problema è che Berlusconi, per cedere sullo sbarramento del 5 al 4, vuole il consenso del Partito Democratico sull'esclusione del voto di preferenza. Questo è il nodo. Il nodo della preferenza. Ci aiuta a capire, io ho già citato che nella maggioranza numerica dei paesi, in 16 paesi europei, la preferenza c'è. Però nella maggioranza, se si vuole, dei parlamentari eletti, cioè nei grandi paesi, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia, invece le preferenze le hanno tolte. L'onorevole Calderisi ci ha detto si tratta del 70% della popolazione europea. Esatto. Di fatto. Ecco, esatto. Perché questa differenza secondo lei? Cioè i paesi piccoli mantengono le preferenze e i paesi grandi le hanno tolte? Ma i paesi grandi, perché nei paesi grandi una campagna elettorale fondata sulle preferenze è una campagna elettorale che pone dei problemi di costo, di utilizzo dei mezzi, dei media, dei mezzi di informazione. E poi nei paesi grandi, molto più che nei paesi piccoli, è importante difendere il ruolo del partito, soprattutto in un'elezione di questo tipo. Vede, il voto di preferenza non è né il male assoluto né il bene assoluto. Il voto di preferenza è uno strumento e, come tutti gli strumenti, va valutato sulla base dei fini che deve raggiungere e dei contesti in cui viene applicato. Nel caso delle elezioni europee probabilmente è il contesto in cui è meno adatto il voto di preferenza, perché noi, e sarebbe auspicabile che i nostri partiti scegliessero dei candidati che vanno a Strasburgo e a Bruxelles con delle competenze anche linguistiche e non sulla base invece di un rapporto territoriale cosiddetto garantito dal voto di preferenza. Ma secondo lei questo avverrebbe nella politica italiana, come ha detto Berlusconi, cioè scegliere i competenti, o sarebbe l'ennesima cooptazione, voglio dire? Le due cose non sono incompatibili. Una cooptazione basata sulla competenza va benissimo. Io sono del parere, in questa arena io non esprimerei la stessa opinione se stessimo discutendo di preferenza a livello di elezioni comunali, provinciali o nazionali, perché lì gli argomenti sono diversi. Ma in questo caso specifico, secondo me, gli argomenti contrari al voto di preferenza sono superiori degli argomenti a favore del voto di preferenza. Il voto di preferenza va valutato pro e contro. In questo caso i contro sono, a mio avviso, di più. In altri contesti, in altre arene, se ne può discutere. Ma in questa arena, a mio avviso, ripeto, i i malefici del voto di preferenza, comunque gli aspetti non positivi del voto di preferenza, sono superiori ai benefici. Mm. Lorenzo da Trento, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Stavo ascoltando la trasmissione e volevo dire due cose. Sì. La prima, quando Polito definisce la proposta di legge elettorale una legge truffa, sottintende che chi la proponga è un truffatore. Quindi non mi sembra tanto cercare il dialogo tra le forze politiche se uno dice all'altro sei un truffatore. Quanto poi alla cosa che dice Polito, molto interessante in realtà, che quello che sta proponendo Berlusconi lo fa per calcolo politico, mi sembra molto legittimo e vedo anzi nella incapacità da parte del PD di proporre una proposta opposta alternativa, e invece il PD dice semplicemente questa è una legge. Quindi dice ci sta il calcolo politico. Non solo ci sta, poi vorrei dire sì. L'ultima cosa, se mi permette, a Tabacci. È vero che Berlusconi ha fatto nascere Forza Italia davanti a un notaio, ma è anche vero che ormai è un partito politico che ha stravinto le elezioni. E allora, invece... no, è stato chiarissimo, ha posto due domande secche. Allora vado da Tabacci e Polito. Tabacci, risponda all'ascoltatore e anche sulla questione io aggiungo, insomma, se i partiti minori sono stati bocciati, diciamo così, dagli italiani anche con lo sbarramento al 4% in Italia, evidentemente la gente non li vuole, allora perché non toglierli anche dal Parlamento europeo? Ma guardi, io sono una persona che semplicemente ha passione politica e civile, l'ha sperimentata a lungo nel corso della vita interna alla Democrazia Cristiana. Ora, i partiti di oggi sono dei partiti farsa, non è vero che c'è un dibattito, tutti, non è che ne sto salvando qualcuno, non è vero che c'è un dibattito interno, che c'è una verifica politica, che c'è una tensione morale che porta alle soluzioni più adatte per il Paese, non è così, è per questo che il togliere le possibilità di scelta da parte dei cittadini è estremamente pericoloso in un Paese nel quale non c'è stata l'applicazione della Carta in ordine al funzionamento della vita interna dei partiti. Questo lo voglio dire ed è un elemento che peserà e che pesa. Tra l'altro la selezione delle classi dirigenti, vorrei segnalare anche ai radioascoltatori, che nel 1946 alla Costituente, io non è che voglio esaltare il valore legale del titolo di studio, lo potrei anche abolire da questo punto di vista, però ricordo che il 75% dei parlamentari era laureato. In questo Parlamento nominati solo il 61%, con la differenza che nel 1946 l'Italia per metà era analfabeta, oggi sono tutti molto scolarizzati, gli basta poco e non è sufficiente per chiarire qual è l'aspetto che c'è tra questi finti partiti e la selezione delle classi dirigenti. No, il dato a voi va bene, io non ho nulla da aggiungere. Polito, direttore, sottintendendo legge truffa vuol dire Berlusconi è un truffatore? Traduceva l'ascoltatore, insomma, chi propone la legge? Certo, il governo. Certo, sta ingannando gli italiani, sta facendo credere che c'è un'efficienza. Sì. Magari per mandare professionisti in Parlamento europeo come Iva Zanicchi e Elisabetta Gardini, che sono appunto parlamentari europei, o magari qualcuno che non è stato eletto alle elezioni politiche e che bisogna sistemare al Parlamento europeo e che viene definito professionista. Questo secondo me è un imbroglio. E sono anche falsi le informazioni che vengono date, perché la maggioranza dei paesi europei conserva sbarramenti più bassi e sistemi di selezione dei candidati, non devono essere necessariamente le preferenze. Se ne posso trovare numerosi altri, ma l'idea che possa passare il concetto che un'assemblea elettiva, qualsiasi essa sia, anche il Parlamento europeo, sia meglio la nomina che l'elezione, è un'idea di una, a mio modo di vedere, di una gravità assoluta, perché le elezioni democratiche consistono nella scelta dei propri rappresentanti, poi uno può decidere se li vuole che parlano inglese, francese, spagnolo, o se li vuole che parlano solo napoletano se vota a Napoli, o solo milanese se vota a Milano, ma lo scelgono i cittadini. E che fanno però l'esame del curriculum? Cioè, voglio dire, se ci fosse una vera scelta meritocratica dei partiti. Non lo so. Allora, guardi, allora a quel punto ha ragione Tabacci. Cioè, se questa è la democrazia nel terzo millennio, allora io vorrei una legge che regolamenta la vita interna e la vita democratica dei partiti. Allora, quando scelgono i candidati, vorrei sapere chi li sceglie, con che metodo, con che, diciamo, selezione democratica, quali sono i curricula e così via, perché se no così è una nomina reggia, lo ripeto. Veltroni e Berlusconi, sì, entrambi prendono uno e dice tu mi piaci, Ma immaginate se quello lì potrà mai fare il parlamentare libero da vincolo di mandato, cioè quello sarà un impiegato di Berlusconi o di Veltroni, non sarà un eletto. Onorevole Calderisi, sinceramente, secondo lei quante probabilità ci sono che si porti avanti questa legge? Perché oggi la stampa, per esempio, dice quello che ha detto ieri Berlusconi, o ampie convergenze o nulla, è una sorta di pietra tombale su questa bozza di legge di cui Io lei è relatore. Sono pienamente d'accordo con la valutazione che ha fatto il presidente Berlusconi e voglio purtroppo nel merito si dovrebbe discutere, come diceva Dalimonte, in modo laico, e qui c'è tanta strumentalizzazione perché è veramente assurdo che fino all'altro ieri il PD nell'Ulivo nella scorsa legislatura sosteneva una legge senza preferenze e ora improvvisamente una legge senza preferenze non va bene, quindi c'è tanta strumentalità. La cosa che a me dispiace è questa, che gli elettori avevano salutato come una sorta di liberazione la drastica riduzione della frammentazione e la nascita finalmente di due grandi partiti come in tutta Europa, perché solo se il sistema si basa non esclusivamente ma essenzialmente su due grandi partiti, uno di centrodestra e uno di centrosinistra, a vocazione maggioritaria su basi programmatiche, possiamo finalmente avere un bipolarismo di tipo europeo. Abbiamo tanta strada ancora da compiere, ma se si va indietro, questo è un fatto gravissimo, questa è la cosa che mi preoccupa. Questa legge serviva per andare avanti. Allora, perché dice serviva per andare avanti? Cioè, anche lei servirebbe anche per andare avanti. Servirebbe, ecco. Vedo che il PD ha cambiato linea. Vassallo in aula alla Camera ha detto non più il partito aggregato su basi programmatiche, ma la santa alleanza anti-berlusconiana che va dall'estrema sinistra fino all'UDC di Casini e all'Italia dei Valori. Serviva l'UDC sia anche risucchiato in una logica di questo tipo che rischia di vederlo alleato insieme di nuovo ai Pecoraro Scanio, ai Di Liberto, a tutto il caravanserraglio a cui abbiamo assistito. Allora, serviva o servirebbe? Professor Dalimonte, lascio a lei la chiusa in 30 secondi se ce la fa. Secondo lei questa legge serviva, come ha detto Calderisi, nel senso che è passata, oppure servirebbe, come poi sei corretto, nel senso che è ancora in piedi? Io sono uno studioso e non un parlamentare, quindi non so come siano messe le cose all'interno del Parlamento. Credo che ci siano dei rischi di defezioni tra la maggioranza, per questo qualche dubbio c'è. Comunque volevo ribadire, questa è una cattiva legge elettorale e se non passasse sarebbe un danno per il paese. Scusi, è andato via un attimo il cellulare, lei ha detto questa non è una cattiva legge. Non è una cattiva ecco, legge elettorale. Il non si era perso, capisce? Che anche così com'è. E potrebbe essere toccato, ho già detto che l'abbassamento della soglia dal 5 al 4 non sarebbe uno scandalo, non al 3, ma al 4 va bene, ma se non passasse e rimanesse l'attuale legge elettorale sarebbe un danno per il paese. Questo ce l'ha già detto, insomma io mi devo fermare qui, devo chiudere, ma il suo pensiero è chiarissimo su questo. Ringrazio davvero tutti di essere intervenuti, vedremo oggi una giornata chiave su questo fronte, Berlusconi vedrà Fini a pranzo, si capirà se avrà ancora un percorso questa legge oppure morirà un po' così. Grazie Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Matte in regia, ci ritroviamo domattina.